E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, buon inizio settimana da una Milano piovosissima. Per fortuna c'è il sole in regia, la parte tecnica, Peter Bescapè e Laura Vanossi in redazione. Andiamo subito ai titoli di oggi. Macula, il cuore della retina. Guarda che ti passa. Comicanti, quando comicità fa rima con solidarietà. Oggi ci occupiamo di una piccola porzione della nostra retina che si trova nella parte posteriore del globo oculare, la macula. Volendo fare un paragone, possiamo dire che se il cuore è il motore della nostra vita, la macula è quella della nostra vista, perché è la struttura che serve a formare la parte centrale della visione, cioè quella più nitida, più dettagliata. Naturalmente non voglio togliere nulla al resto della retina, che ha il compito di formare la parte periferica dell'immagine, quella meno dettagliata. Sono tutte e due importanti, ma oggi ci occupiamo in modo particolare della macula. Che lavora di fino, ecco. Bene, fatta questa grossolana precisazione premessa, vi presento l'ospite di oggi che è in studio con me, è tornato a trovarci, il dottor Antonio Scialdone, responsabile dell'unità operativa oculistica prima al Fete Bene Fratelli di Milano. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Senta dottor Scialdone, ho paragonato la macula al cuore, perché quando la macula si ammala l'occhio non vede più o non vede più bene. Ma mi spieghi bene esattamente che cosa succede? Forse ho azzardato troppo, l'ho tirato un po' per i capelli. No, no, mi sembra che il paragone sia corretto. Potrei dire un'altra cosa rapidamente. Immaginiamo che la vista sia fatta come un'alta montagna, di quelle un po' a disegno, fatte un po' a punta. Sì. Se io dico che vedo bene solo se salgo sulla punta della montagna e sì, tutta la discesa mi fa vedere, no, un po' più, man mano che scendo vedo peggio, ebbene la punta della montagna è la macula. Sì. Quindi vedo molto bene, ma solo in quel pezzettino in punta, e tutto il resto vedrò ma un po' meno bene perché scendo. Concettualmente è questo. Allora, dottor Scialdone, andiamo a sentire la nostra scheda in cui abbiamo cercato di raccogliere ed evidenziare alcuni segnali che potrebbero, perché li commentiamo poi insieme a lei, aiutarci a capire se la nostra macula è sofferente, e poi vediamo che cosa fare. Ti sembra di vedere meno nitido con un occhio? I colori ti appaiono un po' sfocati? Hai bisogno di più luce per leggere e fai fatica a farlo in modo spedito? A volte le lettere risultano sovrapposte o spezzate? Se osservi un foglio a quadretti, hai l'impressione che le linee siano un po' storte? 800-24-0024, segnatevi o ricordate questo numero per intervenire in diretta. Dottor Scialdone, tocca a lei. Quando queste sviste possono essere, metto sviste tra virgolette, possono essere considerate dei campanelli d'allarme? Diciamo che la visione è un fenomeno che coinvolge sia la parte propriamente biologica, quindi la retina, sia anche la percezione cerebrale. Quindi le cose non c'è un sintomo esatto e chiaro che ci dà la diagnosi. Sì. Bisogna stare attenti a quando le cose non funzionano e non funzionano ripetutamente. Per esempio, giuste le cose che avete messo in evidenza, sottolineerei il fatto che comincio a vedere male qualsiasi cosa sia da un occhio rispetto all'altro. Torniamo al discorso che facciamo sempre di chiudersi un occhio per volta per controllare ogni tanto quale occhio vede peggio. Vedo male per un giorno, per due, per tre, questa cosa non mi passa, mi sfrego l'occhio e via dicendo, devo andare a farmi vedere perché è un segno che qualcosa non quadra. 800 24 0024, parleremo di diagnosi, parleremo di terapia, anche di quello su cui sta lavorando la ricerca, ma parleremo anche di riabilitazione. Infatti, quando la vista progressivamente peggiora, occorre aiutare chi sta vivendo il problema a rieducare in un certo senso il cervello a vedere. Certo, dottor Scialdone, certo, questo? Uno degli aspetti, diciamo, più carenti nel percorso terapeutico delle maculopatie è quello delle persone che, arrivati quasi alla fase finale, vedendoci un po' meno, con un residuo visivo magari anche ragionevole, sono poi sostanzialmente abbandonati, nel senso che non hanno riferimenti per potersi far sistemare degli ingrandimenti, degli occhiali speciali per poter sfruttare al meglio la vista che hanno. Quindi avremo un collegamento insieme al professor Filippo Cruciani, che è coordinatore scientifico del Polo Nazionale Ipovisione di Roma, che ci racconterà che cosa significa oggi in Italia riabilitazione, a chi è indicata e dove si può seguire un percorso riabilitativo. Il numero verde ve l'ho già detto, ma io intanto che ci sono ve lo ricordo: 824 0024. Aspettiamo le vostre telefonate e i vostri interventi. Una mela al giorno. E a proposito di vista, per anni ci siamo sentiti dire a nostra volta, abbiamo detto, occhio non vede, cuore non duole. E forti di questo abbiamo consigliato anche ai nostri bambini di non guardare, ad esempio, la sbucciatura sul ginocchio o il medico intento a fare la punturina. Bene, ragazzi, abbiamo sbagliato tutto. Lo dimostra una ricerca i cui risultati possono essere riassunti in una frase: guarda che ti passa. Ma ci facciamo spiegare tutto da uno degli autori della ricerca, la dottoressa Viviana Betti, che è ricercatrice alla Fondazione Santa Lucia di Roma. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, esattamente. Infatti la nostra ricerca ha proprio dimostrato che guardare una parte del corpo sottoposta ad una stimolazione dolorosa induce una riduzione del dolore stesso, sia in termini di intensità che della spiacevolezza della stimolazione. La sensazione di dolore è un'esperienza molto complessa e ognuno di noi descrive solitamente il dolore come forte, intenso oppure fastidioso, spiacevole. In questo studio noi abbiamo dimostrato che osservare la parte del corpo sottoposta ad una stimolazione può ridursi all'intensità che alla spiacevolezza del dolore. Dottoressa Betti, quindi il vostro studio apre nuove prospettive per il trattamento del dolore? La terapia del dolore, che è classicamente affidata ad interventi esterni come il trattamento farmacologico, invece in questo studio noi abbiamo dimostrato che in situazioni di dolore possiamo anche avvalerci di interventi di riduzione del dolore basati sulla modulazione cognitiva. In sostanza non è soltanto la situazione in sé a determinare direttamente ciò che le persone provano, e in questo caso ad esempio la stimolazione dolorosa, ma è piuttosto il modo in cui esse interpretano certe esperienze. In sostanza, guardando appunto questa simulazione, possiamo agire una forma di controllo sull'evento e questo potrebbe ridurne la sua entità. Sicuramente questo è un passo avanti nella terapia del dolore, che attualmente è affidata solo ad interventi esterni, dottoressa. Esattamente, esattamente. Infatti noi crediamo fortemente che questi risultati possono contribuire ad una maggiore conoscenza dei meccanismi sottesi alla percezione del dolore e speriamo sempre di più che possano avere importanti ricadute pratiche. Grazie dottoressa Betti per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Pronto soccorso. Allora, torniamo ad occuparci del tema di oggi, maculopatie, cioè le patologie che possono interessare alla nostra macula, che è la parte più nobile della retina, che provvede proprio alla visione centrale, quella più fine e dettagliata. Abbiamo passato in rassegna i sintomi iniziali, ma cerchiamo di capire se oltre agli anni ci sono altre cause o fattori predisponenti. Dottor Cialdone. Sicuramente per quanto riguarda le maculopatie legate all'età, cioè che si sviluppano nelle persone diciamo dai 60 in su, il fattore genetico costituzionale è fondamentale, perché è il fattore di rischio principale per ammalarsi. Quindi se ho un genitore, un fratello o qualche parente stretto che ha avuto una maculopatia, è meglio che mi faccia controllare un pochino più frequentemente. Secondo e l'altro aspetto, ovviamente, la genetica non è per fortuna una condanna, ma è una predisposizione che io posso alleggerire o aggravare con un mio stile di vita più o meno salutare. Ecco, allora voglio leggerle subito un messaggio di Loredana che ci scrive da Trento. Il mirtillo aiuta la vista nelle ore crepuscolari e la prevenzione delle maculopatie o una leggenda metropolitana? Diciamo che siamo più sulla leggenda metropolitana. Però il mirtillo è così buono. Il mirtillo è buonissimo. In stagione, direi, no? Esatto, poi adesso oppure dobbiamo entrare anche l'industria manifatturiera. Certo, anche i succhi. Sostanzialmente direi che quello che oggi viene ritenuto più importante sono gli antiossidanti, essendo la maculopatia senile un problema un po' di accumulo, come se fosse la spazzatura che per anni sotto la retina non riusciamo a eliminare perché il metabolismo rallenta. gli antiossidanti proteggono la retina, quindi vitamine e sali minerali in una delle numerose preparazioni che esistono sul mercato, da prendere costantemente. Tutti i giorni. Altrimenti ha poco senso. Quindi un po' sì, un po' no, è inutile. Diciamo, si buttano soldi. Si buttano soldi perché se ho un problema di predisposizione cronica è inutile che lo prenda per un mese. Il mese dopo sarò da capo un'altra volta. Quindi devo cercare di antiossidarmi per il resto dei miei anni successivi. Ed evitare di fumare, giusto? Fumo e retina, c'è una relazione sì, sicuramente stretta e negativa. È dimostrato da studi vari che clinici che il fumo peggiora la probabilità di ammalarsi, l'aumenta. Dottor Cialdone, se parliamo di maculopatie, spesso si pensa siano solamente patologie delle persone avanti con l'età. È corretto questo oppure dobbiamo anche invitare un'altra categoria, categorie diverse di ascoltatori che non hanno superato i 50 e 60 anni ad occuparsi della loro certo. retina, della loro macula? Ma se io prendo il termine maculopatia come una dizione generale di una malattia della parte centrale della retina, ci faccio rientrare più o meno di tutto. Oggi, ovviamente, per motivi di numeri, la maculopatia si riferisce all'anziano. Nel giovane, le persone particolarmente da stare attenti a questo termine sono i miopi elevati, che hanno una probabilità di avere una emorragia centrale a causa della sottigliezza della rete molto maggiore di altre persone. Ci ha raggiunto il professor Giovanni Staurenghi, direttore della clinica oculistica all'ospedale Sacco e direttore della seconda scuola di specialità di oftalmologia all'Università di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. L'abbiamo raggiunta solo ora, ma allora ci porti subito delle buone notizie. Aia. Allora, sentivo il dottor Cialdone, ciao Antonio. Ciao Giovanni. Che appunto diceva cose correttissime sulla prevenzione e gli antiossidanti e sui giovani come appunto la patologia della miopia che può avere le stesse complicanze che si hanno nella forma senile, ma chiaramente a età molto più giovane. Il problema rimane ancora la terapia, sì. Nel senso che per le forme neovascolari, anche nella miopia patologica, abbiamo la possibilità di utilizzare più o meno gli stessi farmaci che sono utilizzati per la forma senile, anche se, e qui è un piccolo problema, non abbiamo studi clinici che sono specifici per questo tipo di terapia. La nostra terapia attualmente è più basata sull'esperienza e su una serie di casi, più che un trial clinico sì. per quel tipo di lesioni. Mentre il vero problema è la forma, diciamo così, di atrofia, cioè di mancanza di tessuto, e in questo caso non abbiamo nessun tipo di terapia per la miopia patologica. Abbiamo speranze per quanto riguarda la degenerazione maculare senile secca o appunto o atrofica o come viene detta atrofia geografica, e queste sono tutte sinonimi, in cui almeno 5 studi internazionali sono in corso per vedere di trovare un farmaco che quantomeno rallenti la progressione di questa malattia. Dottor Cialdone, rimane ancora il problema della diagnosi. Riuscite a fare la persona che avverte questi sintomi è educata a rivolgersi in tempi brevi all'oculista? Ma a mio avviso non ancora in modo così efficace. L'evoluzione biologica della maculopatia, soprattutto quella forma umida, cioè quella che sanguina e che forma una cicatrice sulla macula, sì. perché come si diceva prima... Ce ne sono due forme, esatto, secca e umida. Esatto. Ce le descriva con un paragone. Sì. Diciamo che la secca è come se fosse un tessuto troppo consumato che a un certo punto fa un buco e in quel punto non vedo più la trama. Se non c'è più la trama, la retina a quel punto non funziona più, non ci sono più cellule vitali. Certo. Siccome non c'è una terapia particolare specifica per questo tipo di più presto o più tardi si fa la diagnosi, sostanzialmente non ci cambia molto, purtroppo. Nella forma invece umida, cioè dove ci sono dei capillari anormali che poi sanguinano e formano una cicatrice, un po' come un tubo dell'acqua che perde, in un certo senso, più presto, siccome c'è un'evoluzione biologica, cioè la cicatrice si forma nel giro di 2-3 mesi da quando comincia la patologia, più presto intervengo e meglio è, perché, come diceva appunto Staurenghi, si possono fare dei farmaci specifici per questo tipo di maculopatia. Il paziente non è in grado da solo di sapere che tipo di forma ha, quindi il concetto è: devo andare a farmi vedere più presto, perché se per caso ho la forma umida posso essere salvato in qualche modo. Ho dei messaggi da leggervi, ma prima voglio andare a Catania. Ci aspetta Giuseppe all'800 24 00 24. Giuseppe, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Vorrei chiedere un'informazione. Sì. Io sono affetto da retinite pigmentosa. Sì. E, diciamo che cerco il buio per riposarmi la vista, perché mi dà fastidio la luce. Ho saputo che ci sono dei filtri da montare sulle lenti che possono dare qualche, diciamo, beneficio. Vorrei sapere se effettivamente servono e ci sono. Professor Staurenghi, cosa può rispondere al nostro amico Giuseppe? Allora, sicuramente i filtri ci sono di vari colori, e la scelta del filtro è molto soggettiva, nel senso che le retinite pigmentose, come il nostro ascoltatore ci racconta di avere, possono avere varie alterazioni. Se per esempio c'è del liquido, cioè dell'edema a livello della retina, spesso il filtro giallo viene preferito a altri colori. In altri casi invece è preferibile il filtro rosso o il filtro arancione. Comunque la cosa migliore è recarsi da un ottico specializzato e provare qual è il colore che uno preferisce. Dal punto di vista terapeutico non fanno nulla, non è che rallentano la malattia o guariscano la malattia, ma sicuramente dal punto di vista funzionale, cioè la capacità di vedere meglio, su questo possono certamente agire. Migliora la qualità della visione e quindi della vita anche. Esattamente. Andiamo a Lucca, ci aspetta Renzo. Buongiorno Renzo. Oh, buongiorno, io sono torinese come lei. Ah, Renzo! Anche se abito a Lucca. Beh, però vive in una bella città. Beh, sì, molto simile sotto certi aspetti a Torino. È vero, però è lei vero. A Torino non la enfatizza più di tanto, anche durante la manifestazione del libro. Veniamo al problema. Io purtroppo sono affetto da maculopatia umida. Sì. E ormai sono anni che faccio iniezioni intravitreali sia di Lucentis sia di Avastina. Sì. Adesso c'è questo nuovo approccio sperimentale con la radioterapia. Volevo sapere qualcosa di più in merito a questo. Dottor Cialdone, allora. La radioterapia in effetti è una nuova proposta. Dobbiamo tenere presente che anche se in altre forme, però è stata già proposta anni e anni fa senza risultati evidenti. Le maculopatie sono dei processi biologici multifattoriali, cioè intervengono moltissime componenti di tipo biochimico che interferiscono l'una con l'altra. Quindi pensare che un trattamento che sia fisico possa influire sulla biochimica è difficile. Ora ci sono studi in corso. Giovanni, mi confermi che fate un rapido consulto? Sì, allora ci sono due nuove approcci: uno intravitreale, cioè bisogna fare una vitrectomia, entrare all'interno dell'occhio e rilasciare una piccola quantità di radiazioni sulla zona dove c'è la lesione neovascolare. L'altra invece è proprio uno strumento particolare dove non si ha un'introduzione di nulla all'interno dell'occhio, ma si fa dall'esterno. Sono ancora, mentre il primo ha qualche studio clinico, ma ancora di fase 2, la fase 3, quindi quella che ci dice se è efficace o meno, non è ancora disponibile. Finito, esatto. l'altro invece deve ancora iniziare la fase 2, quindi si vuole vedere se non ha grossi effetti collaterali per ora. Quindi siamo molto all'inizio. C'è qualcosa, ma al momento non disponibile. Appena uscito dall'industria, poco. Per il nostro amico torinese che vive a Lucca, continuare ma con io, la terapia. Anche se lui ha una maculopatia da anni, quindi presumibilmente la questione è sicuramente già abbastanza stabilizzata in qualche modo, gli consiglierei di non precipitarsi negli Stati Uniti, di aspettare un attimino. Macula, il cuore della retina, di questo ci occupiamo oggi insieme al dottor Scialdone e al professor Staurenghi. Dottor Scialdone, abbiamo aperto la trasmissione elencando una serie di sintomi che possono in qualche modo indurci a pensare che la nostra macula vada controllata, diciamo così. E quello più evidente è, e lei l'ha sottolineato, alla portata di tutti, è quando iniziamo a vedere in modo diverso da un occhio rispetto all'altro. Certo. Poi abbiamo parlato di predisposizione, di fattori di rischio, di familiarità e di antiossidanti e di stile di vita. Tutto questo ok, ma alla fine come fate voi a capire qual è l'esame che permette di fare una diagnosi precisa, puntuale, rapida? Ma oggi ci sono diversi strumenti diagnostici. Direi che quello che probabilmente sta cambiando negli ultimi anni il nostro modo di diagnosticare e di vedere la retina è sicuramente l'OCT. È un'indagine assolutamente non invasiva, una specie di scansione non invasiva dall'esterno, sì. Si dilata la pupilla e riusciamo a vedere la retina in prospettiva come se fosse una torta tagliata con tutti gli strati in modo anatomico, con una precisione di 7-8 micron, quindi riusciamo a vedere molto meglio anche cose che l'occhio anche di un oculista esperto spesso non percepisce, quindi è un esame che sicuramente si allargherà sempre di più ed è un esame indispensabile per riuscire a capire se la mia retina ha un qualche cosa, e questo qualche cosa lo potrò poi approfondire con altri esami successivi come per esempio la fluorangiografia. Fra l'altro da questo punto di vista direi che per esempio Staurenghi ci può precisare come i nuovi fluorangiografi dell'ultimo anno o due usciti hanno una capacità diagnostica molto maggiore di quelli tradizionali. Professor Staurenghi, conferma? Assolutamente sì, soprattutto perché come ha detto... Intanto ci spiegate, perché voi sennò noi rimaniamo un po' indietro. La fluorangiografia è un esame che permette di vedere la retina, ma iniettando? Un colorante. Sì, perché? Che non è un materiale di contrasto. A differenza invece dell'angiografia con indocianina verde, sì, che contenendo una piccola quantità di iodio per stabilizzare il colorante, è da considerarsi un materiale di contrasto. Quindi questa, se vogliamo, è più sicura? Tra virgolette, sì. Nel senso che ci possono essere reazioni allergiche anche alla fluorangiografia, anche se sono molto molto rare, però sono ahimè descritte. Ecco perché indubbiamente l'uso di, come primo passo, l'uso di esami non invasivi, come per esempio diceva il dottor Scialdone, l'OCT, facilita la valutazione senza dover, soprattutto per quando si seguono i pazienti e si devono seguire, ahimè, con le nuove terapie molto frequentemente, senza dover fare per forza un'angiografia. Andiamo a Bergamo, ci aspetta Gabriele, buongiorno. Buongiorno. Siamo pronto? Qua? Sì, noi siamo qua. Buongiorno. Io ho chiamato per avere se ci sono delle informazioni a proposito di eventuali nuove ricerche e sperimentazioni sulla sindrome di Stargardt, sì, che è una degenerazione maculare, se non sbaglio, di tipo ereditario. Sì, e è questo, corretto. Mi permetto di... Questo purtroppo ha detto la parola giusta, ereditario, quindi non abbiamo adesso, oggi, dei mezzi che dovrebbero essere sicuramente impattanti dal lato genetico, quindi dal lato del DNA, per poter far rifunzionare questa macula. Quindi che siano staminali, che siano retrovirus, che siano altre cose, comunque sicuramente la ricerca da questo punto di vista è attiva, ma non abbiamo risposte positive per il nostro amico Giovanni. Gabriele. Esatto, Gabriele. Gabriele, vuole aggiungere una domanda? No, era così per sapere se appunto c'era qualche, ogni tanto si sente parlare di passi in avanti, di esperimenti nuovi da Napoli. Dal TGEM di Napoli noi abbiamo avuto anche il professor Auricchio di recente, e il TGEM di Napoli sta lavorando benissimo con anche il professor Ballabio, ma professor Taurenghi? Assolutamente vero, purtroppo, ed è una delle loro ricerche proprio la Stargardt. Il problema è che attualmente non c'è nulla utile per portarlo nella normale lettino, pratica clinica. Ecco, al lettino. Esatto. Questo non vuol dire, sottolineiamolo, che non ricerca, si faccia nulla. Bravo, esatto, perché i passi avanti si fanno. La ricerca è fatta di passetto dopo passetto. Tante volte si torna anche indietro per andare, no, per procedere. Ma portarla dal laboratorio al lettino del malato, la strada in questo campo è ancora un po' lunga. È giusto? Sì, una cosa che comunque è molto interessante, che comunque una patologia con terapia genica è possibile curare, che è la malattia di Leber o RP64. La cosa interessante è proprio questa: si è in grado di fare questo tipo di terapia, bisognerà poi provarla e diciamo così sintonizzarla bene per ogni tipo di patologia. Però il concetto della possibilità di una terapia genica c'è già, ecco, e questo è sicuramente qualcosa di promettente. E ne abbiamo parlato anche Essere Benessere, trovate l'intervista con i ricercatori del TGEM di Napoli nelle precedenti puntate, naturalmente sul nostro archivio. Voglio andare a Roma per salutare Carla, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Ecco, bene, io avrei una domanda, un paio di domande per i dottori. Bene, sono due, così le distribuiamo. La prima per il dottor Scialdone, sì. Via. Dunque, io in marzo, dopo un intervento di cataratta, ho incominciato a vedere ondulato, per cui in seguito abbiamo fatto angiografie e anche una terapia fotodinamica, e si è vista questa lesione neovascolare. Purtroppo ho avuto difficoltà a curarmi in Italia, perché diciamo a Roma più che in Italia, per cui mi sto facendo curare in Svizzera. E mentre in Italia c'è, per esempio, ci sono queste iniezioni intravitreali di Avastin. Sì. Carla, invece deve essere un po' sintetica, mi scusi, soprattutto se ha due domande, per lasciare spazio anche agli altri. Lucentis, la domanda era quale delle due può risultare più efficace, e poi cosa si può fare per salvare l'altro occhio, insomma, che ancora non ha questa lesione. Allora, ma io approfitto di questa domanda, che mi sembra interessante per la nostra ascoltatrice, ma anche per tutti quanti. La nostra ascoltatrice forse è rimasta un po' indietro, nel senso che il Lucentis è ormai distribuito da tutti in tutta Italia ed è coperto dal sistema sanitario nazionale, per cui non ha senso andare in Svizzera. Esatto, cioè non ha alcun senso, non che non, soprattutto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista clinico. In Italia ci sono oculisti, escluso sottoscritto ovviamente, che sono bravissimi. Non ha alcun senso andare in Svizzera, quindi rimanete in Italia. Il Lucentis c'è l'Avastin, c'è tutto quello di cui il paziente ha bisogno. Il secondo punto di interesse, la nostra Carla ha messo in relazione cataratta e... Non c'è relazione, ovviamente, nel senso che sono ambedue patologie della persona, diciamo, anziana, che vanno in parallelo. Quindi io posso avere la cataratta e la maculopatia, ma non perché la cataratta mi causa la maculopatia o viceversa, ma semplicemente perché tutte e due fanno parte dell'età. E neanche un intervento di cataratta andato male poi in qualche modo, dimostrato... perché sono due... No, casomai, eventualmente, la cosa da notare è, prima di operarmi di cataratta, il mio oculista deve essere ammesso che ci sono anche casi in cui non si riesce, ma insomma nel 90% dei casi si riesce a capire se ho anche un problema di maculopatia, quindi in modo da non avere sorprese dopo l'intervento, lo posso sapere già da prima. Saluto Mario, che ci chiama da Roma all'824 0024. Mario, buongiorno. Salve, buongiorno. Volevo chiedere se su un occhio con una retina particolarmente fragile da elevatissima miopia è consigliabile una infiltrazione intravitreo, come mi è stata consigliata, o se ci possono essere dei pericoli, dei rischi per la retina così fragile. Grazie Mario, stia in linea che magari il professor Staurenghi ha bisogno di ulteriori dettagli. Professor Staurenghi. No, assolutamente. Allora, per quanto immagino che abbia una lesione neovascolare. Non sappiamo, Mario? Sì, pronto, secca, sì. Secca, sì. Secca. No, se è secca allora non c'è motivo di fare terapia, perché come diceva il Saldone prima, questo tipo di farmaci agiscono nel chiudere un vaso che sta perdendo liquido, quindi se è secca non c'è terapia. Se però non ci fosse, fosse ancora una fase attiva, cosiddetta, allora ci sono due terapie: o la terapia fotodinamica, che è quella che si utilizza ancora e che è stata introdotta qualche anno fa, e invece le iniezioni intravitreali. Confesso che non ci sono studi che paragonano le due terapie, quindi il medico può scegliere quello che lui ritiene più utile nel caso specifico, quindi però è possibile, assolutamente sì, e i risultati indubbiamente sono molto buoni. Allora, dottor Scialdone, ho una domanda che forse ti aiuta a completare un po' le informazioni su macula e retina. A mio padre hanno diagnosticato un Packer maculare, è una maculopatia anche questa? Ma diciamo in senso di denominazione sì, perché colpisce la parte centrale. Ma però, che cos'è? Non è un processo degenerativo nel senso di quello che abbiamo parlato prima, ma è sempre un'alterazione della parte centrale, cioè della macula, legata all'età, ma è la formazione di un ispessimento della superficie, come se si formasse una membrana tipo il cellophane che mettiamo sui piatti per coprirli, no? Sì. Quello di plastica. Questa membrana è un po' contrattile, per cui si raggrinza e deforma la macula, come avere delle pieghe, sì, su una stoffa. Ed è una cosa che non necessita di farmaci, ma può essere e viene operata togliendo, asportando con delle pinzette sul fondo dell'occhio questa macchina. Esatto, ed ha dei buoni recuperi. Ah, bene, una buona notizia. E speriamo che ci dia anche buone notizie il professor Filippo Cruciani, che è in linea con noi, coordinatore scientifico del Polo Nazionale Ipovisione di Roma. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Professor Cruciani, l'avevamo anticipato, con lei vogliamo parlare di riabilitazione. È un grosso capitolo dell'oftalmologia, un problema emergente che oggi da un punto di vista epidemiologico presenta proprio punte di drammaticità, perché tutto quello che è stato ascoltato fino adesso va bene, ma va sottolineato il fatto che non ridà la vista completamente, non è che il paziente ritorna alla situazione che aveva in precedenza, resta sempre una situazione di ipovisione, c'è una riduzione della vista che può essere più o meno sensibile. Quanto dura, professor Cruciani, un processo di riabilitazione, un percorso di riabilitazione? Ma dipende da caso a caso, però noi ci battiamo e vorremmo che fosse così, che la riabilitazione fosse continua nel tempo. Certo. Anzi, questa è una cosa molto importante, cioè il paziente dovrebbe far riferimento a questi centri di ipovisione, perché la situazione può cambiare di volta in volta, ma non solo, è necessario anche che ci sia, diciamo, tutta un'azione di recupero, di esercizio continuo per appunto riabilitarsi. Perché ci deve essere molta partecipazione da parte del paziente, quindi una stretta relazione tra l'oculista che lo segue e il paziente, che deve un po' rimparare a leggere e a guardare, quindi a mandare in messa, il cervello deve in qualche modo reinventarsi una lettura. Cioè il paziente diventa in questo caso il primo attore, è lui che deve essere fortemente motivato. Se non c'è questo, la riabilitazione fallisce inevitabilmente. Quindi ecco l'importanza che il paziente sia motivato, e nel nostro percorso, così come l'abbiamo impostato al Polo Nazionale, il primo impatto che ha il paziente con la struttura avviene attraverso lo psicologo, e c'è sempre poi questa continua presenza dello psicologo, proprio perché se perde la motivazione la riabilitazione fallisce. Rischia di fallire. Allora, per sapere i centri che si occupano di riabilitazione, io vi invito a visitare il sito della IAPB, lo facciamo ogni volta, oppure a mettersi in contatto col numero verde 800 06 8506 e troverete tutti i centri che svolgono questa importante azione riabilitativa, quindi aiutano le persone che sono state danneggiate nella vista a leggere, a vedere quanto più possibile. Professor Cruciani, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori. Ringrazio anche il professor Staurenghi. Grazie professore. Mille a voi, arrivederci. E lei invece si ferma qua in studio con me. Per il caffè. Certo. Questa è lezione di prevenzione. Lezione di prevenzione. Viene a lezione di prevenzione. Con la mia rima ti faccio prevenzione. Uno. Lavati le mani anche molte volte al giorno. Due. Usa il fazzoletto per tossire e starnutire. Noi gliele cantiamo e gliele suoniamo con le regole di prevenzione all'influenza A, ma anche con una puntuale e corretta informazione. Oggi parliamo di bambini e vaccini. Che questa influenza avrebbe colpito in misura maggiore i piccoli rispetto agli adulti era previsto, infatti sono considerate categorie da proteggere dopo gli operatori dei servizi essenziali, le donne in gravidanza e i malati cronici, ma forse l'influenza sta correndo in modo più veloce di quanto si aspettasse, e allora noi oggi ne vogliamo parlare insieme al professor Pasquale Di Pietro, che è presidente della SIP, la Società Italiana di Pediatria, e direttore del Dipartimento di Emergenza del Gaslini di Genova. Buongiorno professore, grazie. Buongiorno a lei. Le scuole sono quasi deserte e sicuramente la morte della ragazzina undicenne di Napoli ha acceso ulteriori interrogativi. Professore, i bambini hanno un rischio maggiore di ammalarsi. Ma hanno un rischio maggiore come numero, come quantità, ecco, questo è importante dirlo, ma hanno poi un'evoluzione come tutti gli altri, salvo i pazienti che hanno patologie croniche importanti. Senta, il vero rischio è anche che i bambini sono diffusione del veicolo, no? Sono veicoli di diffusione. Notevolmente possono rappresentare un grande veicolo anche per le famiglie, quindi siamo l'unica preoccupazione in questo momento che abbiamo è che si passi rapidamente anche a livello territoriale, locale, a vaccinare i pazienti cronici, sia adulti che bambini. Senta, tosse, febbre alta, non ho dubbi, il mio bambino ha preso l'influenza A, come lo curo? E cosa devo fare? Chi chiamo? La cosa più semplice da curare è quello di tenerlo innanzitutto a casa, di avvertire il medico di famiglia, di dare una buona alimentazione, una buona reidratazione, ma la cosa più importante è, se ha febbre molto elevata, chiedere consiglio al pediatra, che in alcuni casi darà l'antipiretico, cioè quel farmaco che butta giù la temperatura, perché nei bambini, soprattutto piccoli, ci può essere rischio per febbre elevate, di convulsioni e... quindi una maggiore attenzione anche da questo punto di vista. Professor Di Pietro, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Prego. Grazie dottor Scialdone, noi ci speriamo di vederci presto, prossimo mese magari. Grazie a voi che ci avete seguito, andate a riascoltare le canzoni dei Medici Cantanti sul sito di Radio 24 per cantarle e suonarle all'influenza A. Un saluto da Nicoletta Carbone.